America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. This week Gaddafi's troops were poised to enter Benghazi over the weekend, putting hundreds of thousands of civilians in that city of 700,000 at great risk. Il segretario di Stato Hillary Clinton ha dato un resoconto ieri di come è andata la settimana, di come sta andando questa settimana di guerra contro la Libia, con questa resistenza di Gheddafi, una resistenza ostinata a non rispettare il cessate il fuoco, una resistenza efficace dal suo punto di vista, perché allunga i tempi e comincia a creare un po' di agitazione a livello internazionale. Abbiamo visto la Germania che si è ritirata, ha fatto questo un po' sgradevole nel momento in cui c'è una coalizione molto forte schierata per far sì che la risoluzione 1973 sia rispettata. Abbiamo avuto delle critiche contro il presidente in congresso. Il presidente della Camera, Boehner, ha attaccato la Casa Bianca per non essere stata, secondo Boehner, abbastanza trasparente. Ecco, insomma, siamo un po' in quella fase di mezzo in cui la guerra è forse più lunga di quello che ci si aspettava, quantomeno gli attacchi che avrebbero dovuto consentire una no-fly zone sicura sono un po' più lunghi di quello che ci si aspettava, si aprono un po' di divergenze politiche. Questa mattina ho saputo che il presidente Obama la passerà al telefono a dialogare con le sue controparti, con gli alleati, soprattutto in Europa e nei paesi arabi. Però devo dire, mi ha colpito soprattutto l'osservazione di Jay Carney, il portavoce della Casa Bianca, il quale poi alla fine un po' scocciato mentre stava atterrando di ritorno dal viaggio sudamericano del presidente, ultima tappa è stata ieri a El Salvador, ha detto beh, insomma, guardate, questa è la stessa gente che ci attaccava quando noi stavamo costruendo, creando le condizioni per poter poi passare a un attacco, e che oggi ci critica perché siamo nel mezzo dell'attacco. Come dire, qualunque cosa si faccia è difficile vincere. Aspettiamo dunque a questo punto di capire se la vittoria, tra virgolette, contro le postazioni antiaeree di Gheddafi è davvero vicina. E esse fatto, para além da minha pessoa, é uma demonstração do avanço democrático do nosso país. Perché per la prima volta una donna presiderà il Brasile. Avete sentito questa voce determinata, decisa, Dilma Rousseff, la presidente brasiliana. Si è chiuso questo viaggio sudamericano del presidente Obama, lo abbiamo un po' trascurato perché c'era pressante la cronaca della guerra in Libia, ma vorrei approfittare oggi per fare un piccolo resoconto su questo viaggio che ho seguito, soprattutto nella parte brasiliana, Brasilia e a Rio. Ho aperto con la voce della signora perché è una donna che mi ha davvero colpito. Eravamo tutti insieme, i colleghi, nel palazzo presidenziale con i due leader, con Barack Obama e con questa signora. Devo dire, si è sentita la sua forza politica. È una donna che credo gestirà molto bene il Brasile, non ha improvvisato nulla e anche un po' tirato le orecchie al presidente americano. A un certo punto gli ha detto, beh, insomma, noi siamo usciti bene dalla crisi, il nostro paese sta crescendo a ritmi serrati, speriamo che anche gli Stati Uniti possano rimettersi in ordine, sappiamo quali sono le difficoltà, signor presidente, che sta incontrando. Dunque, questa signora è partita da una posizione di forza e ha potuto farlo non soltanto sul piano della retorica, ma perché ci sono delle cifre concrete. Pensate che il Brasile oggi è il quarto creditore netto degli Stati Uniti d'America, ha un credito di 200 miliardi di dollari. Non solo, ma le esportazioni americane in Brasile superano le importazioni dal Brasile. Dunque l'America in Brasile è a sua volta invece in attivo nella bilancia dei pagamenti, cosa che certamente non succede con altri paesi. Dunque una serie di circostanze molto interessanti, caratterizzate da un messaggio politico che è stato sicuramente nuovo, perché in questo viaggio Barack Obama ha ufficialmente elevato il ruolo del Brasile a quello di potenza globale, a quello di un interlocutore privilegiato per la gestione di questioni non soltanto economiche, ma anche politiche, che poi è un annuncio molto coerente con la nuova strategia americana che identifica per la governance globale, per la nuova governance globale, quattro interlocutori di primo piano, oltre agli alleati europei naturalmente, cioè la Cina, l'India, la Russia e appunto il Brasile. Ma questi complimenti del presidente americano non sono soltanto così a parole, sono naturalmente propedeutici anche ad obiettivi di affari. Ci sono 200 miliardi di dollari in ballo che il Brasile spenderà in infrastrutture per preparare la Coppa del Mondo del 2014 e poi subito dopo le Olimpiadi del 2016. Tra l'altro una battuta di Barack Obama durante la conferenza stampa quando ha detto: se ripenso a queste Olimpiadi ancora mi fa male. Qualcuno di voi lo ricorderà, il presidente americano era andato al sorteggio per cercare di così appoggiare la candidatura americana e invece poi ha vinto il Brasile. Ma vi dicevo che vi saranno una gran quantità di commesse che possono, debbono interessare le nostre aziende italiane. Il Brasile è straordinariamente dinamico. Ci sono poi ovviamente questioni ambientali, energetiche, insomma c'è una gran quantità di dossier aperta. Il Brasile ha scoperto degli imponenti giacimenti di petrolio al largo delle coste. Nel giro di pochi anni diventerà il terzo o quarto produttore mondiale di petrolio, pensate. Ecco, in questo contesto io credo che sia importante che i nostri imprenditori e le nostre aziende comincino a focalizzare l'attenzione partendo magari proprio da questi 200 miliardi di dollari disponibili. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica. Chi vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Elizabeth Taylor. I don't really know how to express my gratitude. L'avete capito, la dedicheremo a Elizabeth Taylor che ci ha lasciato ieri a 79 anni, attrice straordinaria, donna bellissima, una vita intensa, lo sappiamo tutti, 8 matrimoni, 7 mariti, sposò 2 volte Richard Burton, una sua massima è rimasta famosa in nome dell'ottimismo. Quando mi dicono che ho avuto tutto, io rispondo: non ho ancora avuto domani. E dunque a lei dedichiamo la canzone che il suo grande amico Michael Jackson, erano veramente molto molto amici, avevano sviluppato un bizzarro rapporto di grande amicizia e intimità. Ecco, Michael Jackson scrisse una canzone, Liberian Girl, apposta per lei. Di Michael Jackson, Liberian Girl, per Elizabeth Taylor. And you change me, girl. A feeling so true. Liberian girl, you know that you came and you changed my world. Just like in the movies. Two lovers in a scene. And she says, do you love me? And he says, so will it's me. I love you, Liberian. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.